anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records con la sua sigla dei Foundation Build Me Up Buttercup, rigorosamente 100% vinile stasera come da tradizione di Basement Records, e un nuovo carico vinilico di recupero stasera perché è tornata qua con noi, lieta ospite, la Virgi, sì, è ritornata, sì, a trovarci e sì, a rimpinguare il nostro catalogo vinilico. Allora, grazie, tornata. Sono tornata perché ho sentito, poi io quando sento che vengono gli altri mi ingelosisco e dico ma come? Allora ritorno, sì, tengo un po' sotto controllo perché che qui il dama può fare il posto, c'è sempre, chiaro, lo sai, lo so che sempre la cuore, benvenuta. è sempre aperto. E quindi niente, sì, ho deciso di ritornare sempre con un po' di bei dischini. Di bei dischini, sempre un po' vecchia scuola, collezione Paterna, che ringrazio sempre, ma oggi non lo ringrazio perché mi ho fatto arrabbiare, e quindi ti è babbo, ho preso i dischi e me li tengo anche a questo giro. Venduti così istantaneamente in rete. A farmi arrabbiare. Sì, bene. Quindi, a parte le faide paterne, sì, ecco, ho riportato qualche chicchina. Questo giro un po' lassiconi, devo dire, non è che mi sono proprio sdata, però come ci no? Sta, ci sta. E, grande, dopo, l'hai detto, classiconi, grandi classici. Più che... Ma perché dai, l'ultima puntata, la puntata scorsa, cioè, ho avuto il punk trash del mitico Ivan. Allora io tutto roba, tra l'altro cose attuali. Chiaro, certo. E quindi io così, per non essere da meno, invece sono tornata un po' così, un po' old school come sono. Giusto, io. Lo spirito di Basement Records è un po' retromaniaco, perché se sono vinili di recupero dalle no, varie parti volta di solito qualche sono... volta c'è qualcuno bravo che continua a comprare i vinili, esatto, e c'è anche della roba sta sul pezzo, qualche uno, però l'abbiamo finito ultimamente, insomma iniziano a essere diverse, è ritornato molto, come sì. Ripetiamo, amiamo ricordare qua sulle... Ma è merito del Dama Records, che ha fatto la trasmissione, allora ora tutti non credo. prendono i vinili. Comunque volevo dire che questa sigla, nonostante ovviamente siamo orfani, non troviamo più il dischino della nostra vecchia sigla, però insomma questa sigla non fa rimpiangere. Dai, ecco. Dai, no, a me piace, a me piace molto. A volte sì, è bellissima. Poi te l'ho detto, ora adesso inflazionata perché ora la usano tutti. Adesso la risento anche da tutte le parti, però è da, così, da è così. Quando l'ho rimessa... Mi capita sempre all'orecchio. Sì, è così, è un po'. Però, anche quella. Vedi, ci stavamo perdendo senza ricordare i nostri indirizzi. No, Dama, vai sì, vai avanti, no, lei. I nostri lei indirizzi, che, come spero sicuramente saprai, il sito è cambiato. Sì, è il nuovo sito. Il nuovo sito adesso è radiowombat.net. Già da un po', ma amo sempre ricordarlo e martellare bene. I miei disgraziati ascoltatori che già mi ascoltano, ma almeno faccio un servizio utile ricordando delle informazioni che potrebbero... È un ragazzo utile alla società. Esatto, diciamo. Almeno qualcosa di utile mi sento che lo faccio. Quindi radiowombat.net, la nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e il nostro canale Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. E questi sono i nostri canali, i nostri indirizzi per mettervi in contatto con noi, per farci sapere di tutto e di più, come consigli, suggerimenti, infamate. E mi stavo dimenticando, complimenti se ce li volete fare, noi li prendiamo, non è che adesso anzi voglio subito fare un altro appunto, visto che mi sono dimenticato di ricordare la nostra frequenza in onde mediocri in AM, nella vostra autoradio oppure nella vostra radiolina casalinga o nel vostro impianto hi-fi, se ancora avete quelle cose ormai obsolete in casa. Vabbè, comunque in onde medie per la zona di Firenze 1359 1359 in AM, ricordo sempre, potrete ascoltare Radio Wombat anche mentre andate in macchina, se non avete quelle macchine tecnologiche vi potete sentire i podcast, ma lasciamo perdere. Sì, vabbè, insomma ci sono tanti modi per usufruire del Radio Wombat, usate quello che vi piace di più, però fatelo, perché insomma, certo, mi sembra che valga la pena. Fatelo come vi pare, ma usufruite di Radio Wombat. Esatto. Va bene, allora noi daremo inizio a questa... Partiamo dal primo dischino che ci hai portato. Puntata, il primo dischino in realtà... Discone, è un 12 pollici. Un discone e in realtà ha più dischi, perché è una collezione dei Kinks. Dei mitici Kinks, avevamo già in realtà, mi sa, un po' di tempo fa... in una precedente puntata, ma sicuramente attinto a questa collezione perché è uno dei miei dischi preferiti veramente, quindi ogni tanto lo rivogo, così lo riporto in voga. E a questo giro abbiamo deciso di farvi sentire Sitting on My Sofa dalla lato 3, insomma, quindi dal secondo disco della collezione, e così per dare un contributo al nostro caro amato tema del rifiuto del lavoro, quindi tutte le canzoni che dicono non ci piace lavorare, stasera. Noi ce li accogliamo, e quindi così abbiamo sempre un po' questo core tematico che ci insegue, che noi inseguiamo. E quindi che dire, vabbè, insomma, i Kings non necessitano di troppe introduzioni. Forse non ce lo auguriamo, perché sennò davvero veramente spengete la radio, andate a fare altro. Però questo disco in realtà è una raccolta, appunto, tra l'altro, in cui fanno anche delle cover, è una raccolta di pezzi loro e di cover anche di Chuck Berry e di altri artisti. È un disco prodotto nell'85 e che raccoglie appunto tutti i maggiori successi della band canadese, perché non tutti sanno che i Kings non erano inglesi come tutti pensano, ma bensì canadesi. Il vecchio David Diamond, Mr. Zero e gli altri componenti dei Kings venivano infatti da Oakville in Ontario, e appunto la band poi ha influenzato così tanto della musica tantissimo a venire, perché se pensate veramente è del 77 i primi lavori, ma davvero, insomma, molto molto prima, sì, no, scusami. 77, vabbè, mi sono incartata. Comunque sì, no, la produzione sono stati tra i grandi, insomma, esponenti che poi hanno spianato la strada a un certo rock o pop rock di matrice più blues, più legata al blues. È anche per quello che probabilmente vengono spesso ricollegati e confusi con i gruppi della British Invasion, che erano appunto stati tantissimo influenzati dal blues, molto più delle band americane, perché, come si dice, ma profeta in patria, è sempre così. E quindi magari sono stati è per questo che vengono spesso ricollegati alla British Invasion, ma loro appunto erano della terra delle foglie di acero. Esatto. E bene, quindi niente, vi spariamo sto sentiamoci pezzaccio, ascoltiamoci i Kings. E ricordatevi che siete sempre qui a Basement Records su Radio Wombat. Yeah. E questi erano i Kings con Sitting on My Sofa, dalla loro antologia, appunto, del 1977. E adesso che sì. Allora, vedo una bella copertina, bella gialla. Sì, sì, sì. Allora, adesso vi proponiamo questo biline che è la colonna musica del film La Bamba, cioè la storia della band dello Slobos, di Richie Valens e dello Slobos. E il film è dell'87. Bamba. Esatto, voleva fare. Il film è dell'87 e io quando ero appunto piccolissima ero flippata con questo film e quindi mio babbo fu costretto a comprare il vinile o la colonna musica e a metterlo ininterrottamente e poi a odiarmi. Esatto, stavo dicendo, probabilmente tuo padre odia nel profondo dell'anima questo film. Sì, sì. E me, direi, soprattutto oggi. Quindi, niente, fondamentalmente il film era appunto la biografia, il biopic con Lou Diamond, l'attore che faceva Richie Valens, e tra l'altro i pezzi, ovviamente, che compongono la colonna musica di questo film sono i pezzi dello Slobos, ma anche pezzi di altri, ovviamente, di altri autori. E i pezzi che non sono canzoni originali, appunto, che non sono le canzoni, quindi la colonna musica originale composta, appunto, ci sono dei pezzi composti apposta dal film, sono curati da Carlo Santana e Miles Goodman. Chiaramente noi vi mettiamo un paio di pezzi e sono tutti e due dello Slobos. Richie Valens, come molti sanno, ebbe vita breve, morto a soli 17 anni in un incidente aereo, quindi ha composto in realtà pochissimi pezzi. Mi sembra però tipo, rimasti tutti nella storia, sì, nella storia di quello che poi appunto dell'inizio del rock and roll, ecco. Esatto, e soprattutto l'importanza di Valens, perché era appunto lui era un messicano, era un migrante e il vero nome ovviamente non era Richie Valens, ma era infatti prodotto da Santana e appunto. Esatto. Il nome d'arte appunto era Richard Steven Valenzuela. Nato a Pacoima, appunto di origine messicana, insomma lui era di seconda generazione, la famiglia era messicana e era sempre rappresentato anche per questo, insomma, no? Così una voce diversa nel campo del rock and roll, che invece era prevalentemente bianco, rubato ai neri, quindi bianco, sì, quindi come i Vali Flesley, sì, no, come praticamente e tutta quella banda di bianchi, come quasi che però tutte le musiche popolari del esatto, però lui invece appunto rappresentava appunto invece un'eredità, una legacy che i messicani tuttora sentono molto e si rivendicano molto. Cioè, uno dei miei gruppi preferiti, Girlfriend in a Coma, un gruppo indie della zona appunto del New Mexico, fa le cover di un sacco di pezzi di Richie Valens e così ha una grossa importanza, insomma, ovviamente per le persone di origine messicana. Bene. Latinos. E da questa colonna musica non vi facciamo sentire La Bamba perché aiuto. Dai. Però vi facciamo sentire un paio di pezzi. Abbiamo detto quindi Come On Let's Go e Oh My Head. Io direi in successione. Sì, tanto sono attaccate. Arrota una di seguito all'altra, almeno. Ritorniamo un po' ad ascoltarci i Los Lobos e Richie Valens, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no? Partenza con la rincorsa, Radio Wombat. Well, I love you so. Vabbè, che altro dire? Dicevamo, leggevamo appunto, non ci si ricordava, siamo andati a controllare che appunto l'incidente d'aereo che vide la morte di Richie Valens il 3 febbraio del 59 è anche lo stesso di Buddy Holly, erano infatti sullo stesso aereo, quindi infatti è famoso, questo giorno rimane famoso perché lo chiamano appunto The Day the Music Die. Perché appunto come dargli torto a esatto, quei tempi effettivamente scomparvero nello stesso momento, sei fatto momento fuori Buddy Holly un colpo solo e scusa una sola botta. Dovevano infatti appunto proseguire il tour che stavano facendo e la tappa successiva doveva essere Fargo nel North Dakota, Fargo che poi appunto noto per il film diventata famosa e appunto. Decisero infatti di prendere un piccolo aereo e tra l'altro si giocarono il posto perché c'era pochi posti. Valens e il chitarrista si giocarono a testo croce il posto sull'aereo. Vinse Richie Valens e che culo direi. Insomma, non so se la cosa interessante, non mi ricordavo infatti che appunto la bamba, che poi è quella che ha reso famoso, lo slobos, in realtà è una tradizionale canzone huapango del Messico orientale. L'huapango è una canzone formata da versi apparentemente senza senso, il cui significato è noto solo all'autore. I produttori non volevano registrare il singolo perché credevano che un pezzo del genere cantato interamente in spagnolo con qualche riff di chitarra non avrebbe fatto presa sul pubblico. Pensate, infatti in realtà la bamba si fermò solo al 22esimo posto delle classifiche, ma ovviamente è ricordata poi come la più famosa canzone esatto, di Ricci. Esatto, non tanto, forse non avrà avuto quel riscontro commerciale appena uscì, ma mi sembra che sia... Esatto. Diventata abbastanza famosa, ecco. Succede con molte song. Va bene, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti, insomma. C'è un altro grandissimo. Questo non è della collezione della Virgi, ma è sempre uno di quelli ereditati da Radio Wombat, in prestito a Radio Wombat dalla discografia lasciata da Radio Comanci di Campi Bisenzio, una radio libera degli anni 80 che vi ho già ampiamente presentato. Credo, presentato e fatto sapere come appunto questi vinili sono poi arrivati in dono qua in prestito a Radio Wombat per farli riascoltare appunto da... perché erano fermi dalla metà degli anni Ottanta, da quando poi appunto Radio Comanci cessò le sue trasmissioni radiofoniche. Ricordo una delle storiche radio libere della zona nord di Firenze, e alcuni di questi vinili avuti da Radio Comanci erano state a sua volta ereditati da Radio Comanci da Antenna Libera Toscana, un'altra radio libera della fine degli anni 70, dell'inizio della liberalizzazione dell'FM. E quindi insomma hanno fatto diversi giri. Hanno fatto diversi giri per arrivare appunto fino qui a noi, nello spazio, a nel Radio tempo. Wombat, e più di recupero di così. Un recupero storico, direi, anche delle radio libere appunto toscane, e ancora ce n'è un bel po' da ammettere. Questa era solo la prima tranche, mi è stato promesso anche dei nuovi arrivi, perché appunto non sono finite le sorprese da Radio Comanci. Ma appunto da uno di questi dischi, da mito a mito, andiamo a un'altra leggenda, andiamo a Ray Charles, che è un altro di quei giganti che è riuscito a mischiare due generi al suo tempo praticamente inconciliabili, nel suo caso il sacro ed il profano, ovvero il blues con il gospel, cosa che gli ha fatto piovere addosso gli anatemi delle varie comunità cristiane d'America. E per proseguire sulla linea che abbiamo preso questo giorno da questa puntata, da questo Rockin' with Ray di Ray Charles, adesso ci andremo ad ascoltare I'll Do Anything But Work. Chiaro, perché da sitting on the sofa al Genesis Wild Work proseguiamo coerenti con la nostra voglia di non lavorare. Siamo sempre qui, ovviamente, a Basement Records, Radio Wombat. Take you strolling down Lover's Lane. I come to see you even in the rain. I'll do anything for you but work. Sing your praises, hold your hand, tell the world that I think you're grand. I'll do anything for you but slave. I'll take you to dine and dance, fill your ears with sweet romance. You see, baby, I know I'm handsome, but what the heck? I'm all yours if you pay the check. I'm yours to have, yours to hold, but that word work just leaves me cold. I'll do anything for you. Looking at the same, but I'm all yours if you pay the check. yours to have, yours to hold. That would work, just leaves me cold. I'll do anything for you but work. E questo era Ray Charles. Era un po' gli albori, appunto, si diceva, sembra quasi Nat King Cole, sembra appunto, più la roba swing ancora. Diceva, all'incrocio tra il vabbè, ma perché è vero, vabbè. Gospel. Questo invece è molto sinfonico, molto da È legato ancora un po' allo swing, appunto, infatti sembra a non saperlo avrei detto era Nat King Cole, ma in realtà le prime cose di Ray Charles sono così, nel senso che quella l'influenza appunto più viene un po' dopo, matura un po' dopo. A me piace molto, cioè io sono particolarmente assolutamente di questo periodo, però sicuramente le cose più famose di Ray Charles quelle che tutti conoscono risalgono a un periodo sicuramente un po' più avanti di questo. Ma proseguiamo, facciamo un discreto saltozzo, però abbiamo cercato, ho cercato di rimettere tutto in ordine cronologico, col Damma e fa, ma no, ma che vai, buttala a casa. Appunto, ma da quest'altra parte ci sono io e che quindi poi mischio sempre le carte. Questo sempre così duello tra me e il Damma. Bene, quindi arriviamo a Bob Dylan con l'LP di Desire, che è uno dei più noti, uno dei tantissimi LP storici e memorabili della, e abbiamo scelto, va bene, insomma, proprio la discografia di Bob, che è Hurricane, la storia dell'amato, amatissimo pugile che venne incarcerato ingiustamente. La storia immagino la saprete, poi più che nota, portata poi anche alla gloria da Bob Dylan. Da Bob Dylan, perché appunto si prese a cuore la sorte del pugile in diverse stelle, diversi personaggi famosi, anche se poi se non ricordo male la giustizia americana comunque fece un altro corso, il suo corso e finì come finì, appunto, nonostante questa causa fosse stata presa a cuore in modo particolare dall'opinione pubblica, della lotta dei diritti civili, comunque. Chiaramente in mezzo. Il disco contiene tante altre tracce, però insomma Hurricane è la traccia di apertura e appunto anche la più nota alla fine di questo album, che dette vita a un tour, appunto, dicevo prima, c'è un documentario adesso abbastanza interessante sul tour di Desire, che era un tour molto particolare perché vedeva Dylan con una serie di musicisti tutti abbastanza stelle, insomma era una specie di dream team che lui cercò di portare in giro appunto per l'America, tra l'altro di portarla in giro non nelle solite venues, insomma non nei soliti luoghi abituali dei concerti, ma cercò delle location, ma fu un tour. Era già cercava con la band qui? Era con la band che si chiama The Band. No, non erano i The Band, erano proprio, mi sembra, dovrei rivederlo, ho visto un po' di tempo fa, mi sembra proprio che erano... come dire, erano tutti artisti famosi individualmente che lui messe insieme, tipo... c'era Laurie Anderson, c'era una serie di personaggi piuttosto noti e lui mise in piedi, e questo Desire Tour appunto non andò bene, insomma a livello economico fu veramente un fallimento, però rimase famoso perché appunto toccava luoghi che di solito non erano appunto all'interno dell'itinerario dei tour classici. Sì, e soprattutto non erano località, insomma, sale classiche da concerto, ma erano tutti posti un po'. Comunque vi daremo future informazioni, bisogna rivedersi il documentario, che appunto ben fatto, sembra sia Netflix, ma insomma si trova anche in streaming, di Desire Tour. Bene, allora adesso ascoltiamoci il grande Bob Dylan qui con la sua classica

punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. Chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in the coats and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. And give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time. He could have been the champion of the world. E questa era la famosissima Hurricane. E quella si diceva prima, appunto, chiamandolo il Desire Tour. In realtà il tour si chiamava Rolling Thunder Review, che appunto era la rivista, cioè, sarebbe poi insomma la rivista, ecco, il più che il tour, lo show, che era una serie appunto di concerti, una serie di date tra l'autunno del 75 e la tarda primavera dell'anno successivo, che seguivano appunto l'uscita di Desire, ma erano più uno show, insomma una serie di spettacoli che comprendeva una quantità di gente notevole, tra musicisti, autori, poeti, attori. Infatti la line-up poi prevedeva anche la presenza, oltre che di Dylan e di una serie di turnisti, anche di personaggi come Allen Ginsberg, John Bates, insomma Jack Elliot, un sacco di personalità del mondo dello spettacolo, e che dovevano dare vita appunto a un vero e proprio rivista, un vero e proprio show, un po' diverso invece dai classici concerti. Da questo giro, appunto, da questo tour, furono realizzati poi molti album così. Sì, però Thunder Review è stata, come dicevamo prima, esatto, super bootleggata. Esatto. Poi The Rolling Thunder Review, Bob Dylan, The Rolling Thunder Review del 75, insomma, live anche, record. Anche in questo, eccetera, caso hanno avuto molto più successo, sì, poi da postumi che non, esatto, nel momento in cui è successo il tutto, ma... Appunto, come dicevamo prima, è una cosa abbastanza, no, una cosa abbastanza comune. Sì. E, adesso appunto c'è questo documentario con i filmati originali, è molto carino perché fa vedere appunto tutta questa banda di gente, erano tipo una settantina di persone che si doveva spostare, quindi con tutto quello che comprendeva appunto... Se era una review, era una review. Era una review, e d'altronde, che anche noi quando facciamo le review, quando faremo il tour live, capito, delle trasmissioni di Radio Wombat, avremo... Ci tireranno i pomodori, sicuro, marci. Sicuro, però noi, d'altronde, non siamo Bob Dylan, ce la colliamo. Va bene, e quindi proseguirei al prossimo, sì, al prossimo ascolto. Che è già qui sul piatto, sotto di me. Che è un altro classicone, un oggi altro super classico, ci siamo proprio così andati sull'originale. Il primo, tra l'altro, credo, il loro primo lavoro insieme, 1900, no, primo lavoro sicuramente no, perché leggo 1977, e loro sono tre leggende già messi uno già da soli, messi tre insieme, una tripla leggenda, una tripletta che poi diventerà appunto un poker di autentiche leggende, e stiamo parlando appunto di Crosby, Stills e Nash, e questo è uno dei loro album appunto insieme, quando ancora erano in tre, non erano diventati quattro con l'entrata anche di Neil Young. Esatto, sì, questo per capire chi ce l'avesse, chi lo conoscesse, è il vinile, quello con la barca, con la foto, che loro sono, esatto, sono sulla barca a vela, e sì, comunque dovrebbe essere uno dei primi, ora non mi ricordo se è proprio il primo, ma insomma sì, anche perché ne hanno fatti diversi, e abbiamo scelto il pezzo Dark Star perché si voleva capire un attimo, visto che è un titolo che è stato usato da un sacco di artisti. L'avevo scelto io nella utopica speranza che fosse un rifacimento folk rock di Crosby, Stills and Nash, di quel capolavoro della psichedelia che era stata ed è tuttora Dark Star dei Grateful Dead. Non siamo sicuri, però non credo, non comunque credo, perché vedo che l'autore di questa sul centrino sotto ogni titolo c'è anche l'autore del brano, e l'autore è Stephen Stills, quindi dubito che sia la Dark Star di Jerry Garcia e nemmeno soci, quella di David Bowie, e quindi andiamo avanti. David Bowie probabilmente non era neanche ancora nei progetti, no, forse sia 77, oddio, da, 70, del 77, ma io credo che sia una ristampa comunque del 77, no, credo che il pezzo sia proprio del 77, ora controlliamo però andiamo le nostre fonti, però insomma sì, ecco, volevamo capire questo pezzo, ma no, leggo qua tra le ah no, ho sbagliato, è sempre quello dopo, mi sbaglio sempre perché perché io glieli metto, glieli posiziono in ordine, capito? E poi dell'album dopo, però vabbè, andiamoci ad noi ascoltare, ce l'andiamo a sentire e questa ci cerchiamo Dark Star di Crosby, Stills and Nash, sempre qui. Ah, Tonight Alive, sì, ancora oggi, ciao. Ancora stasera non l'avevo detto, madonna, pensavo di avercela fatta per una puntata, al barco, invece no, non mi preoccupavo, l'ho fatta nemmeno mi preoccupavo stavolta, a Basement Records, Radio Wombat. Thank you.

dal pacchetto di Radio Comanci, da cui abbiamo già attinto qualche volta, vero, se non mi sbaglio. Già un'altra volta, mi sembra, ora poi sai, la mia memoria mi fa un po' difetto. A breve e lungo termine ci fa difetto. No, in generale, anche quella a medio. Tutto, il damance, va bene. Lo chiameremo Memento. Memento, esatto. Quindi invece... Ma un memento senza tatuaggi. Eh no, quindi proprio, niente. Proprio, cioè, tabula rasa fissa proprio. Sì, sì. Il suono del telefono, quello quello lì sente. Esatto, esattamente. Però appunto da questo, forse l'album più famoso del grande Tom Waits, da Swordfish Trombone, un album appunto dell'inizio degli anni Ottanta, uno degli album storici e più apprezzati e rimasti nella storia della musica del cantautore statunitense. E da questo che aggiungere di un album così ormai già... Beh sì, questo rappresenta un po' il passaggio di Waits dall'atmosfere un po' da jazz crooner, no? che erano state un po' fino a quel momento, a uno stile diciamo forse un po' più personale, sofisticato, diciamo, viene individuato a volte, non lo so, in quest'album, questo passaggio che è poi degli anni appunto dell'83, come dicevi te, dei primi anni 80. Quindi ancora, insomma, la carriera di Tom Waits è stata comunque... Questo è stato proprio la sua esplosione. Sì, cioè, è il momento anche un po' appunto di svolta. E infatti è un album che contiene numerosi singoli, numerosi pezzi noti del vecchio Tom, da cui noi invece abbiamo deciso di sentirci... La Town with No Cheers, ci andremo ad ascoltare, perché forse... all'interno di Swordfish Trombone dovrebbe essere una di quelle più particolari, se proprio si può dire particolare a un'opera di Tom Waits, ma solo per dire che vedo che sono in tre accreditati nel suonare questo brano, e sono Tom Waits all'armonium vocale, al sintetizzatore e alla campana della libertà. Anthony Clark Stewart invece è all'organo a canne, bagpipe dovrebbe essere l'organo a canne, e Clark Spengler è al sintetizzatore, quindi insomma anche all'interno della classica canzone di Tom Waits non è proprio con i classici strumenti, ecco, a cui avrei ricollegato una canzone di Tom Waits. Appunto, allora andiamocela ad ascoltare, questa città senza saluti, questa è Town with No Cheer, e Tom Waits da Swordfish Trombone, qui è sempre Basement Records, naturalmente a Radio Wombat, e dove se no. Adelaide or New York, with newfangled buffet called Faster. The train stopped in service to less than this often. Oh, there's nothing sadder than a town with no cheap. Rail decided the canteen was no longer necessary. No spirits, no bills, water, and 80 dry locals. And the high noon sun beats 104. There's a hummingbird trapped in a tiny Victorian rhubarb, pouring open for 65 years. Now it's boiling in a miserable March 21st. Wrap the hills in a blanket of Patterson. Train smokes down the xylophone. There'll be no stopping. All you can be is thirsty in the town. Questa era il brano successivo del di Swordfish Trombone. Sì. Ma ce ne ascoltiamo. Ci siamo sentiti appunto questa Town with No Cheer. Con la cornamusa all'inizio, che, non con, c'era ecco, bisogno. Se... Ora si sa, ora si sa. Beh, l'organo a canne. Non sì, me lo ricordavo anch'io. Ho detto, no. E invece bagpipe è la cornamusa e poi se ci pensi bag... C'ha effettivamente senso. C'ha senso sì, la sì, cornamusa. Senso, effettivamente. Effettivamente. Siamo stati un po' così. Siamo andati un po' con l'inglese maccheronico, ma invece ci hanno smentito. Allora direi che in conclusione, dall'album True Stories dell'86, i Talking Heads, facciamo veramente un po' così, un altro salto ma non troppo avanti. Appunto ci accogliamo, che a me sembrava tra l'altro di aver già messo dei pezzi da quest'album, può darsi, però non ci ricordiamo, quindi facciamo finta di niente. E, mi sembrava di no, però si ritornerebbe al discorso di prima. Esatto, che non abbiamo memoria, quindi non ci interessa, tanto come i cani, cioè dopo 2 minuti ce lo scordiamo. E quindi niente, voi ve lo riaccollate anche se ce l'avete già sentito mettere. True Stories, vabbè, è molto, molto famoso, è l'album quello che c'ha scritto Talking Heads in rosso e nero, che è rimasto appunto così iconico anche graficamente. E da questo album, che appunto così rimasto nella storia, proprio perché in realtà è una critica, una così, una... come si dice, una... Io il film non l'ho visto. Sì, perché in realtà, appunto, dicevamo prima... Nonostante la puntata sui Tolkien Heads, devo tirare fuori gli scheletri dall'armadio. Sì, vabbè, dichiarazioni. Poi non è che uno si può ricordare tutto, come si diceva prima. L'album è appunto una... abbiamo scelto, in realtà, una traccia, Love for Sale, che David Byrne scrive e con cui racconta, appunto scrisse, con cui racconta l'invasione proprio della, così, dell'estremo consumismo della società, e che piano piano, che soprattutto all'epoca diventava sempre più galoppante, e in contrapposizione appunto a quello che dovrebbe essere appunto il concetto d'amore così, così allatorio, così, così incontaminato, e invece appunto lui lo mette in saldo, appunto lo mette in svendita e lo fa diventare un altro così, un altro oggetto del consumismo, un'altra cosa che si può comprare. Un altro prodotto che puoi prendere sul ripiano del supermercato. Esatto. Magari, casomai, ditemi dov'è, ci vado, se qualcuno l'ha trovato. Il supermercato dell'amore. L'amore in scatola. E così, appunto, vale la pena ritirare fuori qualche pezzo da questo album, perché è davvero rimasto, insomma... Nella storia della musica, proprio per la sua complessità, per la varietà appunto dei temi e dei pezzi presentati. E anche se ti devo dire che all'interno della discografia dei Talking Heads, non forse è, secondo lei... questo True Stories lo relegherei a uno delle... cioè lo relegherei, per carità, cioè, certo, stiamo sempre parlando dei Talking Heads, però insomma messo accanto a capolavori come Remaining Light o il primo e il secondo. Certo, questo qui anche perché appunto uscendo alla fine dell'estate dell'86 è di fatto una colonna musica tratta dal film, diciamo, dello stesso titolo, appunto True Stories, interpretato tra l'altro da John Goodman, il nostro caro amato Goodman, e dai membri della band stessa che fanno delle apparizioni sporadiche, tra cui appunto anche David Byrne. 10 tracce per 10 storie vere, appunto True Story, in perfetta combinazione con il film, leggevo, che in cui si incrociano destini e vite di abitanti della città Virgil dello stato del Texas, una cittadina, comunità come ce ne sono a decine e decine sparse così negli Stati Uniti, e appunto è proprio prendendo l'esempio di questa città nell'anniversario delle celebrazioni, appunto del 150° anniversario della fondazione della città, i Talking Heads suonano e cantano gli eccessi, le insensibilità e la bonaria dolcezza nascosta nelle nuove forme di aggregazione, di cuori solitari, di persone che rincorrono il sogno di trovare l'anima gemella e di scongiurare appunto la vita solitaria. Questo appunto è una delle più note da questo album, che è di fatto, appunto, come si diceva, una colonna musica, quindi chiaramente esatto. Non è magari all'altezza di altre, cioè, o comunque non rimane magari nell'Olimpo delle migliori produzioni delle teste parlanti, però insomma è comunque un degno assolutamente degno di nota nella loro discografia, comunque un degno prodotto, e appunto ce l'andiamo ad ascoltare. Ce la fare oggi. Oggi siamo veramente. Che dice? Ce l'andiamo ad ascoltare? Possiamo fare oggi. Stiamo tranquilli. Ascoltiamocelo. Qui a Basement Records, Radio Wombat. Le nostre teste parlanti. Proprio le nostre. Le nostre proprio. Radio Wombat. Yeah. E questi erano i Talking Heads con questo brano ripreso dal loro album, dalla loro colonna musica di bravo. True Stories. Bravo. Ho imparato alla fine. Ho imparato. Bravo. Ce l'ho fatta. Incredibile. Questo ragazzo. Ce l'ho fatta. E questo era l'ultimo vinile del recupero della puntata di questa sera. E come sempre alla fine della trasmissione amo ricordare le prossime dirette qua su Radio Wombat. Allora in questo caso le dirette di domenica, che inizieranno come sempre alle 11 con Container, la trasmissione appunto contenitore di tutti quei vari contributi e approfondimenti che non hanno trovato spazio all'interno del palinsesto di Radio Wombat, e come spero saprete li potrete ritrovare qua all'interno di Container la domenica mattina con inizio alle ore 10. Poi altra diretta della domenica, l'ormai consueto notiziario anticlericale in diretta alle ore 12 di domenica, e poi proseguirà il programma di Radio Wombat con la replica dell'ultima puntata di Coccole al Silicio. In questo caso la partenza è per le ore 13, proprio a ora di pranzo. E per poi seguire con un'altra replica di una delle grandi new entry degli ultimi tempi di Radio Wombat, ovvero con Wook Wops, che alle 14 verrà riproposta. Esatto. Appunto la loro ultima puntata. E poi per proseguire qui con il palinsesto della radio, altra nuova trasmissione. Diretta, come amo dire sempre, diretta emanazione del Festival della Letteratura Sociale, ovvero la diretta delle ore 15:30 con Poyuit. E il palinsesto domenicale di Radio Wombat si concluderà alle ore 22 con la replica dell'ultima puntata di Uru. No, scusi, allora ha saltato la fuga del gatto alle 18:30 in diretta, ritorno alla domenica. Ma qui mi sta dando una preview. Mi sta sì. dando una preview. Gliela spoiler. Perché, spoiler. Questa è una preview di cambio di palinsesto. E per sì. questo, infatti, che amo anche spesso ricordare di controllare sempre il palinsesto di Radio Wombat. Un po' di perché cambi, appunto, in corso d'opera. Sì, ci sono cambiamenti, spostamenti, specialmente delle repliche, ma in questo caso, come anticipato sì. dalla Virgi, ritorna il consueto appuntamento con la musica domenicale. Con il ripillino musicale domenicale della musica classica qui su Radio Wombat. E ci vuole dare un'anticipazione? No, guardi, ho già spoilerato abbastanza. Ma poi si ferma proprio qua. Sì, perché poi mi bacchettano con la bacchetta quella da direttore d'orchestra. Ormai ha fatto 30. No, via. In realtà non lo sappiamo ancora quale sarà il tema della prossima puntata. Quindi siamo vaghi. Improvvisazione. La prossima puntata della fuga del gatto sarà sull'improvvisazione. Scoprivatelo. Della musica classica. Bravo, ci ha dato un bello spunto. Musica classica e improvvisazione. Ha visto? Faccia poco il furbino lei, perché una volta viene la voglio vedere l'ospite. No, ho paura. Perché ma no. Effettivamente avrei delle proposte per la fuga del gatto. Noi l'accogliamo volentieri. Mi faccio paura perché poi se vado a finire anche sulla musica classica. Fa il guest star una puntata. Dalai Lama, chi non lo ama? Allora, io sicuramente sì, quindi lo ringrazio per avermi così ospitato come, come da un po' non succedeva, e ci risentiamo presto qui a Basement Record. Aspettiamo e rinnoviamo l'invito a chiunque avesse un po' di vinili nella, nello scantinato, esatto, nella soffitta, o che gli sono arrivati per chissà quale motivo, esatto, o chi più ne ha più ne metta. Se avete dei, dei vinili e vi va di farli ascoltare, noi ai radioascoltatori di Radio Wombat, siamo qui pronti ad ospitarvi. Sì. Mettetevi in contatto con noi, esatto, ricordatevi sempre. Noi i nostri, siamo, tutti i siamo contenti, anche perché via via via finiremo le scorte. Quindi, se non volete, l'appello, se non volete, l'appello si rinnova sempre. Se volete, si estingua, che bisogna che il Basement vada avanti. Esatto, esatto. E invece, prossima settimana è il turno di Tonight Alive. Grande ricchi premi e sorprese. Grandi ricchi premi, anch'io a questo punto non voglio spoilerare, anche se so quale sarà la trasmissione. Puntatona, ma non spoileriamo, lo scopriremo. Dirò collegandosi. Solo che sarà uno dei pochi casi in cui, anzi no, anche nell'ultima puntata di Tonight Alive c'è stato un ospite, però e anche, si continua nella, con anche nella prossima puntata di Tonight Alive ci sarà un ospite a surprise. Ospite a sorpresa, quindi per la prossima puntata monografica, aspettatevene delle belle. Non ve la perdete e noi ci ritroviamo prossimamente sempre su Radio Wombat e sempre a Basement Records. E buon fine settimana, buon sabato sera e buon fine settimana a tutti, e a domani qui sulle frequenze di Radio Wombat. Ciao ciao. Ciao. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.